tempismo nell'ascolto. Arresta il sistema finché non ritorna il conto. Arresta il sistema, arresta il sistema, dai. Qui non respiri dalla puzza degli spray, e di questo me ne vanto per chi ne ha respirato tanto. Arresta il sistema in un lampo. Devi filtrare ciò che vogliono propinarci. Bevi cazzate per far credere di starci, perché sono pronti per drogarci. Stanne alla larga, se no in che guai ti cacci. Non si nasce più con la camicia, si nasce con al braccio un laccio. Mo stati quei mo state con gli occhi aperti. Ce ne vuole di esperienza per diventare esperti. I netti a cui iniettano qualsiasi tipo di droga, dal programma alla tele alla moda più in voga, o ancora dall'ero alla bamba, cambiando l'ordine dei fattoni. Il prodotto non cambia, la rabbia è un'onda nel mare dell'ira, dove l'unica forza reattiva porta una morte suicida. La sfida va in porto, ma in corto purtroppo, perché sei morto prima. Arresta il sistema quando giri sopra la tua testa. Questa arresta il sistema, mettici cuore quando vai su un vagone. Arresta il sistema, queste ne sono le prove. Arresta il sistema, arresta il sistema. In più rimanga impresso ogni nome di una crew, su di un muro, su una pista, su di un palco. Arresta il sistema quando vedi un foglio bianco. Seconda strofa, il livello non cade, fisso in affisso sotto ipnosi da crossfader. E se le parole fanno male come le spade, c'ho piena intenzione di affilare queste lame. C'ho fame di sapere, sete di pensiero, voglio bere sentimenti per affogare il mio ego. Non ho credenze mistiche, soldati baggy jeans fanno pezzi nelle vostre basi missilistiche, perché ci avete missili di plastica, cannoni di cartone, pistola d'aria compressa. La mia testa contesta e manifesta compressa gesta sotto forma di compressa, da 500 mg applicato, da bere tutto d'un fiato, consigliabile acqua fresca. Aspetta che vada in circolazione, dormi un paio d'ore e vedi che il dolore ti cessa. Arresta il sistema quando giri sopra la tua testa. Questa arresta il sistema, mettici cuore quando vai su un vagone. Arresta il sistema, queste ne sono le prove. Arresta il sistema, arresta il sistema, dai. Respiri dalla puzza degli spray, e di questo me ne vanto per chi ne ha respirato tanto. Arresta il sistema.